cervello in fuga, lasciatemi partire. Qui valgo meno di un mazzo di lattuga e non ho voglia di marcire. E sono in cerca di adozione, non sporco e non faccio rumore. Datemi almeno un'occasione per dimostrare il mio valore. Rivolgo al nostromo, lancio un appello ai marinai, nascondetemi in stiva, non vi farò passare guai. Sono un cervello in fuga, ma vado piano piano, come una tartaruga, portatemi voi lontano. Parto e porto con me anche il futuro italiano, e mano nella mano pensiamo a questa stella che ci manda lontano. Lasciatemi fuggire, qui valgo meno di un mazzo di lattuga e non ho voglia di marcire.